GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Corteo per la sicurezza annullato per ragioni di sicurezza. A Udine il questore ha deciso di vietare la manifestazione per le vie della città prevista il 19 settembre, promettendo però sì al sit-in. Scuola bus pieni e corse saltate a Udine, studenti in ritardo e genitori in difficoltà. Mancano 74 autisti, la UIL Trasporti. Ogni giorno 15 corse urbane cancellate. Grandine e fulmini allagamenti, una tempesta ieri sera ha colpito il Friuli Venezia Giulia, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco, incendio a Trieste causato da un fulmine. Trieste, nuovo incendio nell'ex scuola slovena di Via Fianona, edificio avvolto dal fumo. Udine inaugurato il nuovo centro di ricerca clinica e traslazionale del Dipartimento di Medicina, al centro lo studio sull'invecchiamento. Il 75% del pesce che mangiamo è importato, l'appello dei produttori friuliani per valorizzare la trota affumicata locale. Buongiorno per questa seconda edizione del GR regionale della RAI, al microfono Andrei Marussi, c'è Anna Vitaliani in studio, Mauro Cumin in regia. È stato vietato dalla questura di Udine il corteo del 19 settembre denominato Passeggiata per la Sicurezza, che doveva iniziare alle 21 con la prevista partecipazione di oltre 400 persone. I post istigatori pubblicati e poi cancellati sui social, l'adesione di un grande numero di persone riconducibili all'ambiente ultras della curva Nord e l'indisponibilità degli organizzatori a modificare il tracciato hanno spinto la questura a concedere solo il sit-in statico. Tra poco il servizio, noi andiamo avanti con il nostro giornale radio. La scuola è iniziata e puntuali sono iniziati anche i disagi sugli spostamenti nei mezzi pubblici. Alla fermata di Campoformido gli studenti sono rimasti a terra, i genitori si vedono costretti sempre più spesso a chiedere permessi scolastici d'ingresso posticipato, ritardi causati soprattutto dal traffico, ma anche dall'affollamento e dalla carenza cronica di personale. Il servizio. Fermata di Campoformido, ore 7:13. Nel bus per Udine ci si sta a malapena, la porta fatica a chiudersi. Capita che qualche studente non riesca a salire. Ieri, ad esempio, era molto pieno, molta gente non è riuscita ad entrare. Ho dovuto prendere un'altra e sono arrivato stra in ritardo. Sono entrato a scuola 5 minuti dopo. Incontriamo un genitore che accompagna la figlia alla fermata. Sto cercando di capire anch'io cosa succede, perché mia figlia spesso mi lamenta di forti disservizi, corriere piene, non riescono a salire, deve prendere la corriera che non la porta nella sua zona studi in via Diaz e si deve fare 20 minuti a piedi arrivando poi in ritardo a scuola. Arrivati in centro a Udine si aggiunge il problema degli imbottigliamenti. Parte un po' tardino secondo me, ma poi c'è tanto traffico perciò arrivo per forza tardi. Arrivi spesso tardi? Sì. C'è ogni giorno. In alcune scuole i genitori si stanno attrezzando con richieste di permessi permanenti per i loro figli. Monica Napoli, dirigente scolastico dello Stellini. Allora, in questi primi giorni stanno cominciando a pervenire delle richieste di entrata posticipata, uscita anticipata a causa dei mezzi. Il bilanciamento di orari, corse e mezzi è normale nei primi giorni di scuola, ma, denuncia la UIL Trasporti, il critico sottorganico di autisti non aiuta. Il sindacato calcola che ne mancano 74 in arrivo a Udine, con 15 corse urbane saltate al giorno, soprattutto al pomeriggio e di sera. Frequente ricorsa allo straordinario. Enrico Minoia, segretario provinciale della UIL Trasporti. Gli autisti sono sempre sotto stress. Telefono che squilla di continuo, per piacere mi fai domani, mi fai queste tre corse, per piacere così. Chiaramente gli autisti molto spesso, anche stanchi di questo sovraccarico di lavoro, non riescono a dire di no. L'azienda contesta i numeri del sindacato. Mancano una ventina di autisti, riferisce il direttore d'esercizio Emilio Corradazzo. Ne risultano così tante corse saltate, siamo monitorati dalla regione. Con i primi di ottobre, aggiunge, e l'inizio dell'università, il servizio, come ogni anno, si normalizzerà. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E restiamo a Udine sul corteo per la sicurezza che, fa strano dirlo, proprio per motivi di sicurezza è stato annullato. Ora al servizio. Non sarà un corteo, ma una manifestazione statica. La questura vieta la passeggiata per la sicurezza in programma venerdì 19 settembre alle 21 e autorizza invece un sit-in. La decisione presa dopo i post istigatori pubblicati e poi cancellati, l'adesione di un grande numero di persone riconducibili all'ambiente ultra della curva nord e l'indisponibilità a modificare il tracciato, si legge nella nota della questura. Una scelta responsabile, secondo Andrea Di Lenardo, capogruppo Alleanza Verdi Sinistra, sinistra in comune. Il diritto a manifestare verrà comunque garantito, ma sarebbe stato il colmo manifestare per la sicurezza. Parlando di fare spedizioni punitive, come scritto nei post da alcuni organizzatori, scrive Di Lenardo. Federico Malignani, da presidente del comitato Udine Sicura, prima scrive che coerenza, onestà intellettuale e serietà portano ad annunciare che, pur offrendo il massimo supporto organizzativo per la riuscita della manifestazione, il direttivo del comitato non parteciperà direttamente all'evento, al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione legata a divergenze di vedute e di approccio. Con questa scelta dimostriamo la nostra assoluta volontà di non portare bandiere di parte, ma di avere un solo e chiaro obiettivo: migliorare la sicurezza nella nostra città. Poi, all'interno dei canali social del gruppo, avrebbe annunciato le dimissioni dalla carica di presidente del comitato, notizia non confermata dall'interessato, motivandole con divergenze sull'organizzazione della manifestazione. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Migliorare la sicurezza dei controlli di polizia e agevolare il transito degli autotrasportatori lungo l'asse Italia-Slovenia sono questi gli obiettivi della nuova opera infrastrutturale presentata in prefettura durante una riunione del Comitato Operativo Viabilità e presieduto dal prefetto Raffaele Fedullo. L'intervento, realizzato da Autostrade Alto Adriatico S.p.A. in collaborazione con SDAG S.p.A. e il Comune di Gorizia, riguarda la riqualificazione di un'area di circa 2.400 metri quadrati lungo la bretella tra l'autostrada A3 e il confine di Stato di Sant'Andrea-Vertoiba. Il progetto consentirà alle forze dell'ordine di operare in condizioni di maggiore sicurezza e fluidificherà il traffico pesante in uscita dall'Italia. Il prefetto ha espresso soddisfazione per la collaborazione tra enti pubblici e soggetti gestori, sottolineando l'importanza strategica dell'intervento per il territorio. Durante l'incontro è stato anche fatto il punto sulla gestione dei flussi veicolari legati all'esodo estivo e ai lavori sulla superstrada slovena H4. Dall'8 settembre è stata ripristinata la normale circolazione del traffico industriale in entrata in Italia, con transiti distribuiti tra i valichi di Fernetti e Sant'Andrea. Per alleggerire la pressione su Fernetti anche in uscita, Autostrade Alto Adriatico ha attivato nuove misure per la gestione del traffico commerciale in direzione Slovenia. Un gesto di solidarietà, una vicenda con un lieto fine, ma che sottolinea le gravi difficoltà legate al mondo del pendolarismo, con corse dei treni ridotte e la necessità di ingegnarsi per velocizzare gli spostamenti. Una vicenda che lega la nostra regione e la Puglia. Protagonisti, uno studente e un imprenditore. Lorenzo, 14 anni, è un giovane pendolare, sveglia alle 4.30, partenza da Gemona, tre treni da prendere per frequentare il liceo musicale 25 aprile di Portogruaro. La bicicletta, comprata con i propri risparmi per velocizzare lo spostamento dall'ultima stazione alla classe, non è durata più di due giorni, gli viene rubata. Per Lorenzo il tragitto, già lunghissimo da casa alla scuola, si allunga ulteriormente. La madre racconta la disavventura sui social: confido nel buon cuore della gente, nella voglia di legalità, ha scritto la donna. Il post viene intercettato da un imprenditore pugliese, venditore di biciclette, Francesco Leopolito, che decide di mettersi in contatto con la donna e di sopperire al torto subito dal figlio. Lorenzo riceverà così a breve una bici elettrica. Merita di arrivare a scuola puntuale e senza l'incubo dei ritardi, senza troppe preoccupazioni, ha dichiarato l'imprenditore. Sono le 12.39, uno sguardo al maltempo dunque. Ieri sera, chicchi di grandine dalle dimensioni di una noce, tempesta di fulmini, vento fortissimo hanno colpito la provincia di Udine, parte di quella di Gorizia e Trieste. 100 gli interventi dei tre comandi dei vigili del fuoco interessati. A Trieste, probabilmente per un fulmine, si è anche innescato un incendio che ha portato all'evacuazione di una palazzina in zona Scala Santa, intossicata una signora anziana. È stato relativamente breve ma molto intenso, con grandine, pioggia, raffiche di vento e una vera e propria tempesta di fulmini, il temporale che tra il pomeriggio e la serata di ieri ha attraversato le province di Udine, Gorizia e Trieste, provocando numerosi disagi con oltre un centinaio di interventi dei vigili del fuoco. Nel capoluogo regionale la perturbazione è arrivata verso le 20, con una decina di minuti di grandine che hanno imbiancato le strade, seguiti dalla pioggia che ha provocato alcuni allagamenti e la caduta di rami in diversi punti della città e molti fulmini. Proprio un fulmine potrebbe essere stato tra le cause di un incendio che si è sviluppato poco prima delle 22 in una palazzina di tre piani di Scala Santa ed è partito dal vano dei contatori elettrici nell'atrio dello stabile. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato i residenti in strada, tranne una donna che non era riuscita a uscire dal proprio appartamento. Gli operatori l'hanno raggiunta e portata in una zona in cui non c'era fumo, in attesa dei sanitari. Lievemente intossicata, è stata portata all'ospedale di Cattinara per accertamenti. I primi problemi causati dalla perturbazione si erano verificati già nel tardo pomeriggio nella pedemontana friulana. Sant'Ivana. A Gemona del Friuli, nella frazione di Maniaglia, uno smottamento ha riversato detriti e massi sulla strada. A Udine, dove in un'ora sono caduti 28 mm di pioggia, diversi scantinati e sottopassi sono stati allagati, così come le officine e l'aula magna dell'Istituto Professionale Cecconi. Rami e alberi sono caduti sulle strade e alcune zone della città sono rimaste senza elettricità. In provincia di Gorizia, una forte grandinata ha interessato la strada statale del Vallone e il comune di Doberdo del Lago, mentre a Gradisca si sono avuti diversi allagamenti. Molti gli interventi per la caduta di alberi e rami che hanno interessato anche il parco della scuola dell'infanzia di Ronchi dei Legionari, che oggi in via precauzionale è rimasta chiusa. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. E a Trieste un incendio è scoppiato nell'ex scuola slovena di via Fianona, nel quartiere di Sant'Anna. Una densa coltre di fumo ha invaso la zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Le fiamme si sono propagate nel solaio tra il primo e il secondo piano, ancora sotto indagine le cause dell'incendio. Non è la prima volta che ormai l'ex scuola è interessata da un incendio. L'edificio è rimasto inagibile dal febbraio 2001, proprio in seguito a un incendio doloso. L'edificio gode di una speciale tutela prevista dal Trattato di Londra del 1954 in quanto sede di attività scolastica in lingua slovena. Lo scorso luglio i consiglieri d'opposizione della settima circoscrizione del Consiglio Comunale hanno sollecitato la Giunta nel riqualificare l'immobile. Tra le possibili nuove destinazioni si propone da tempo l'insediamento di un asilo nido comunale. Dopo l'incidente mortale accaduto a Trieste venerdì sera, quando una ragazza lombarda, Marta Gianelli, ricercatrice fuori sede di soli 25 anni, ha perso la vita travolta sulle strisce pedonali da un'auto in corsa, abbiamo fatto il punto a Trieste sulla sicurezza dei pedoni. Noi rappresentiamo il fatto che camminare in Italia non deve essere un privilegio di pochi, ma deve essere un diritto. Camminare è il cuore della mobilità e noi vogliamo che in Italia si cammini in città che siano sicure, accessibili e vivibili. Questo lo facciamo attraverso l'educazione, la divulgazione, ma anche la spinta, diciamo, e la collaborazione con le istituzioni. Vogliamo che i cittadini si rendano conto che abbiamo questo problema e che camminare deve essere veramente accessibile a tutti. Alla luce dell'incidente mortale di venerdì sera 12 settembre in via Fabio Severo a Trieste, è costato la vita alla 25enne Marta Gianelli, un evento che ha scandalizzato un po' l'opinione nazionale. Anche voi vi siete focalizzati sulla situazione del Friuli Venezia Giulia. Che cosa è emerso? Dai dati emerge che in Friuli Venezia Giulia in soli 9 mesi abbiamo il doppio rispetto ai pedoni investiti ed uccisi di tutto il 2024. Quindi il trend è molto grave. Quello che accade a Trieste è drammatico. Chi cammina ovviamente non ha un'armatura che lo protegge, che la protegge, ha solo la propria pelle, e per questo il ruolo dell'amministrazione è fondamentale per garantire questa protezione. Noi pensiamo che Trieste, per sua conformazione, abbia tantissimo spazio per interventi di redistribuzione degli spazi, moderazione della velocità. E una chiave che non va assolutamente accantonata, ma va spinta, è la Città 30, che garantisce una mobilità più equa, al costo di pochi secondi della propria vita, permette a tutti di tornare a casa. E questo è un elemento fondamentale. Ci chiediamo come associazione qual è l'interesse e quali sono le misure che da oggi l'amministrazione metteranno in atto per rendere la città più accogliente verso chi la visita, verso chi studia, verso chi la vive. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La voce che avete ascoltato era quella di Francesca Chiodi, che è la fondatrice del Movimento per i diritti dei pedoni. E cambiamo argomento. Partita l'edizione numero 26 di Pordenone Legge, la città si è tinta nuovamente di giallo, il colore della manifestazione, e già durante la sua prima mattinata sta accogliendo numerose scolaresche. In serata l'inaugurazione ufficiale al Verdi con la scrittrice e attivista iraniana, premio Nobel per la pace 2003, Shirin Ebadi. Da Einstein all'intelligenza artificiale, oltre 100 incontri pensati per bambini e ragazzi delle scuole a Pordenone Legge. Sono loro, come da tradizione, i protagonisti della prima giornata del festival. Valentina Gasparet, curatrice Pordenone Legge. Quest'anno è stato davvero un assalto alle prenotazioni. Dopo 60 secondi erano già 700 le prenotazioni da parte delle scuole e siamo riusciti ad accontentare circa 12.000 ragazzi e ragazze. E l'avvio migliore migliore, l'auspicio più bello, ma è molto di più, perché essere vicini al mondo della scuola, dei ragazzi e anche delle famiglie, degli educatori è davvero molto importante. In Galleria Bertoia, dialoghi impossibili con Dante o Jane Austen, creatività aumentata e poesie generate con l'intelligenza artificiale. Cristian Fiorotti, imprenditore digitale. Sta a ciascuno di noi valutare come approcciarsi all'intelligenza artificiale. Se utilizzarla per aumentare le proprie capacità, sfruttarla per mettere a frutto il potenziale che ognuno ha, oppure per avere solo delle scorciatoie che portano a dei risultati di breve periodo, ma che a lungo andare invece non aiutano alla loro crescita, al loro inserimento nel mondo del lavoro. Ma ragazze e ragazzi si sono confrontati anche con il latino nella nuova edizione di Zio Paperone a fumetti, con la prefazione del prof. Andrea Maggi. Il latino è sempre considerato materia scolastica, in realtà è una lingua molto divertente, e con questo libro di Zio Paperone lo si può scoprire, ci si può approcciare al latino divertendosi. Naturalmente c'è anche la traduzione in italiano a fronte. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Taglio del nastro per il nuovo centro di ricerca clinica e traslazionale del Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine. Tanti laboratori si accorpano in un unico nuovo spazio rinnovato e ci sarà un'attenzione particolare alle ricerche sull'invecchiamento. La sede si trova nel rinnovato complesso di via Faedis a Udine, nell'edificio ex Ancelle, in prossimità dell'azienda ospedaliera. L'inaugurazione si tiene proprio in questi minuti alla presenza delle istituzioni e noi poco fa abbiamo raggiunto Leonardo Alberto Secchi, direttore del Dipartimento di Medicina, che ci ha spiegato come le ricerche di questo laboratorio sperimentale riusciranno a dare un apporto concreto alla diagnostica e alla cura dei pazienti. L'idea è partita circa 8 anni fa e l'idea era appunto era quella di creare un punto di riferimento per la ricerca clinica avanzata applicata alle metodologie e alla ricerca di base, quindi col concetto appunto della ricerca traslazionale, creando un ponte tra il letto del paziente e il laboratorio sperimentale e poi viceversa trasferendo quelle che sono le scoperte scientifiche che si fanno in laboratorio in applicazioni che siano applicazioni pratiche nella clinica, che forniscano nuovi strumenti sia di diagnosi che di terapia. Ricerche sull'invecchiamento, la longevità è la nuova frontiera della medicina. Conosciamo tutti l'evoluzione demografica e non per niente uno dei punti su cui si è annodata questa impresa della costruzione di questi laboratori, appunto quello di rispondere alle sfide dell'invecchiamento attivo, sia nell'ambito della ricerca scientifica, anche dei presidi che poi affrontano una realtà molto articolata. Noi sappiamo che nel nostro sistema l'assistenza alla popolazione anziana è diventato sicuramente il problema preponderante che mette in difficoltà le strutture sanitarie, quindi una delle idee su cui è nato questo laboratorio appunto è quella di cercare di sviluppare conoscenza sui processi di invecchiamento e metodologie naturalmente per affrontarle, per garantire il miglior stato di salute anche nelle popolazioni che invecchiano. Favorire nuove opportunità economiche per il territorio goriziano attraverso il dialogo con la Cina. E questo è l'obiettivo dell'incontro che si è tenuto nei giorni scorsi in municipio tra il sindaco Rodolfo Ziberna, il presidente della Camera di Commercio di Ningbo, Li Yongping, e l'imprenditore goriziano David Orzan, nominato ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio goriziano. Proprio grazie all'iniziativa di Orzan, da anni attivo nel settore enologico e con solidi rapporti commerciali in Cina, è stato possibile aprire un confronto sulle potenzialità di investimento a Gorizia, città che, secondo il sindaco, suscita interesse per le sue caratteristiche, la qualità della vita e la collocazione strategica vicino ad aeroporti e porti. In Italia il 75% del pesce consumato è importato per un valore che supera i 4 miliardi di euro. Eppure, proprio nel nostro paese, si produce un'eccellenza troppo spesso trascurata, la trota affumicata friulana. A rilanciare il valore di questo prodotto è Andrea Fabris, direttore dell'Associazione Piscicoltori Italiani, in occasione di Friuli Doc, dove le degustazioni guidate sono andate tutte sold out. La trota affumicata friulana non ha nulla da invidiare al più noto salmone, spiega Fabris, che ha un alto valore nutrizionale. Il Friuli Venezia Giulia è il primo produttore italiano di trote con acque pulite, imprenditori preparati, una solida cultura gastronomica. Fabris invita i consumatori dunque a prestare attenzione alla provenienza del pesce, non solo leggendo le etichette dei supermercati, ma anche chiedendo informazioni nei ristoranti. Le 12.50, uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna, le temperature registrate alle 11, Trieste 22 gradi, poco mare poco mosso con temperatura di 24 gradi, Udine Gorizia 22,5, Pordenone 22, Tolmezzo 18,5, Tarvisio e Forni di Sopra 15, Piancavallo 14, Sappada 12,5. Sullo Zoncolano 8,5, Monte Lussari 6 gradi, grado 23,5, Lignano 23 gradi, temperatura del mare 23 gradi in entrambi le località. Le previsioni dell'ARPA, oggi cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulle zone montane, su Trieste soffierà Borino. Domani cielo sereno ovunque, venti deboli a regime di brezza, temperature oltre la norma del periodo, specie in montagna. E la Fondazione Palazzo Coronini Cromberg a Gorizia ha presentato i nuovi dispositivi multimediali che consentono una visita immersiva. Da oggi dunque è possibile gestire autonomamente i propri itinerari conoscitivi in quella che fu la residenza dell'ultimo re di Francia, Carlo X di Borbone. Non è più necessaria una guida per esplorare il Palazzo Coronini, che da gennaio, grazie al richiamo della capitale europea della cultura, ha già accolto 6.200 visitatori, più del doppio rispetto all'anno precedente. Grazie a un'applicazione dedicata, le sale in cui Carlo X di Borbone trascorse gli ultimi giorni della sua vita ora sono liberamente accessibili, così come le lasciò il conte Guglielmo. Raffinato esteta e collezionista, telecamere di sicurezza richiameranno i visitatori che eventualmente andassero a toccare gli oggetti o uscissero dai percorsi. Sentiamo il direttore della Fondazione Palazzo Coronini Cromberg, Claudio Polverino. Nella nuova configurazione il palazzo darà la possibilità anche alle persone con disagi di poter fruire della struttura. In particolare per chi non potrà salire ai piani superiori, in quanto non siamo attrezzati per portare su le persone in carrozzina, abbiamo allestito dei visori. Sono 6 i visori di realtà virtuale che raccontano la storia del palazzo e del giardino attraverso 5 personaggi. Oltre a Carlo X e al conte, anche la madre di Guglielmo, Olga, e il nonno Alfredo, che creò il parco. Inoltre lo scultore Franz Javier Messerschmidt, autore delle teste di carattere che arricchiscono la collezione Coronini. Sentiamo ancora il direttore Claudio Polverino. Dopodiché, per i non vedenti, ci sono dei meccanismi che con la tecnologia tattile permetteranno anche a loro di poter conoscere il palazzo e la sua storia. Alle scuderie prosegue intanto fino a gennaio 2026 la mostra dedicata ai Borboni che giunsero a Gorizia nel 1836 e vi rimasero fino al 1845 alla morte del figlio di Carlo X, Luigi Antonio, duca d'Angoulême. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Il romance come strumento di inclusione è il titolo della conferenza dedicata al genere romantico a Gradisca di Sonzo a Casa Maccari alle 18 e dedicata alla diversità, all'identità e alle nuove prospettive narrative. Ormai un genere letto dal 40% dei lettori di narrativa, negli ultimi anni il genere ha come protagonisti personaggi che riflettono una società più complessa. L'iniziativa rientra nel cartellone di Art Without Borders 2025 ed è inserita tra gli eventi nel programma di Go 2025 e Friends. Parliamo di cinema. Benvenuto, professore. Benvenuto a Remis. Vedrà, è la pace dei sensi. Remis, località fittizia della carne, è il luogo dove è ambientato il nuovo film horror applaudito fuori concorso a Venezia di Paolo Stripoli dal titolo La Valle dei Sorrisi. Il lungometraggio è stato girato tra Sapada, Malborghetto Valbruna, Tarvisio e Pontebba con il contributo della FVG Film Commission. E siamo a notizia di sport. Difficilmente Francesco Ferrari potrà scordare questo 2025, al culmine di un anno da incorniciare. Il cestista novarese, capitano di Cividale, ha vissuto emozioni indescrivibili nell'arco di 24 ore. Domenica sera la vittoria della Supercoppa di A2 con Cividale, segnando 17 punti in finale. Nel tardo pomeriggio di lunedì la visita al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla squadra che ha vinto l'oro all'Europeo Under 20. Di fronte al Capo dello Stato, Ferrari ha parlato del problema del razzismo in campo, la biodiversità, ha detto, è un bene da preservare ad ogni costo. Abbiamo dimostrato che l'Italia è forte quando è più inclusiva. L'intervista. Più ansia prima di un tiro libero nella finale dell'Europeo Under 20, prima di un tiro importante nella finale di Supercoppa di Serie 2 o prima di un discorso davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Ah, guarda, forse ti direi che ho avuto più ansia a fare il discorso che Mattarella, che a prendere magari dei tiri decisivi all'Europeo o in questa Supercoppa, perché comunque era un appuntamento anche un po' strano, che era la prima volta che facevi, penso di essere abbastanza cavata. Ho fatto l'intervento e ho parlato dei commenti sgradevoli che abbiamo ricevuto e che ci hanno dato la forza. Come ci ha detto Mattarella, noi siamo il volto del futuro, noi siamo la prima generazione dopo quelli, i primi che saranno a esordire nazionale maggiore, in teoria con gli under 20, perché sono sempre più grandi rispetto all'under 18 e all'under 16. E quindi questo qua ci fa molto orgoglio, però sentiamo che sta cambiando qualcosa nell'aria riguardo l'Italia, sia nella nazionale che nelle altre leghe, dove i giovani stanno cercando sempre di più di prendere spazio, e quindi sente che c'è un cambiamento. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto da Andrea Marussic e Anna Vitaliani in studio, in regia Mauro Cumin, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Grazie per l'ascolto e buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.